La carta d'identità. Che cos'è la carta di identità? La carta di identità è un documento personale che serve a dimostrare la tua identità. Se sei cittadino extra UE, devi portarla sempre con te insieme al permesso di soggiorno o alla carta di soggiorno. Per ottenere la carta di identità devi prendere appuntamento con l'URP, che vuol dire Ufficio Relazioni con il Pubblico, servizio anagrafe del tuo quartiere oppure con l'URP di Piazza Maggiore. Se non sei residente nel comune di Bologna, devi rivolgerti solo all'URP di Piazza Maggiore. Prendi appuntamento con l'URP via internet cliccando su Servizio online dedicato nella pagina web indicata qui sotto.